la sabudice. Qui nu va vola redule spade, nu stai ce se nu pensa. Se nu stai scorna, bite gulice. Po' malanghi solo pe gusto e cu dispreții. Fa un conta cazul, ui nu pode nu fare la sabudice. Qui nu va vola redule spade, nu stai ce se nu pensa. Se nu stai scorna, bite gulice. Po' malanghi solo pe gusto e cu dispreții. Viva oio e della pace dell'umanità me precio. Quando sto tranquillo cu ci voglio e non è. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Si giovani de moi sunt un giovento bruciata. Ma guarda bidi, se non posso stare tranquillo né con l'amici. Me posso divertire quanto voglio. Li contro più che segna mamma non è non scappo. Ogni movimento faccio, chiamato è proibito. La sua punta caso lui dopo de non fare la sua budice. Qui tu ma vuole arredo le spade. Non sta chiuso e non pensa. Se ne sta sconda, bitte gulice. Po' malanghi solo per gusto e cu dispezzi. La sua punta caso lui dopo de non fare la sua budice. Qui tu ma vuole arredo le spade. Non sta chiuso e non pensa. Se ne sta sconda, bitte gulice. Po' malanghi solo per gusto e cu dispezzi. Punta, mamma quanto punta. Senti come punta. Non sti cazzo dei cristiani vuole nulla. Guarda, no, no, no, ne vuole me. Ma lei la sta con conto. E così stiamo le cose andate per tutte. Tocca li vidi. Te salutano le nanze già li primi fischi. Incia le ricche gira incia la capo. Come un onda radio che trasmette impulsa luce e bello poco rivi. Con capisci che sta contando di te. La sta con conta. Caso lui dopo de non fare la sta butice. Qui tu che vuole arredo le spade. Non sta chiuso e non pensa. Se non sta sconda bitte gulice. Po' malanghi solo per gusto e un dispezzi. La sta con conta. Caso lui dopo de non fare la sta butice. Qui tu che vuole arredo le spade. Non sta chiuso e non pensa. Se non sta sconda bitte gulice. Po' malanghi solo per gusto e un dispezzi. Dimmi non faccio se una cosa non te va. E inutile che conti alla di buttanate. Butte faccio rispetto non c'è bisogno con conti. Trova una tua baby che la pipa. Ora dici se ci pensi. Dici c'è sto stronzo sta bamba l'angua in giro. De fatti vedi e poi conti solo con disprezzo. Non sta ciò c'è mai fatto. Ma conto lo stesso lo faccio per spezzo. Perché la vita ed è così. La sta confonda caso lui dopo te non fare la sta butice. Qui tu che vuole arredo le spade. Non sta ciò se non pensa. Se non sta sconna bitte gulice. Po' malanghi solo per gusto e con disprezzo. La sta confonda caso lui dopo te non fare la sta butice. Qui tu che vuole arredo le spade. Non sta ciò se non pensa. Se non sta sconna bitte gulice. Po' malanghi solo per gusto e con disprezzo.